Andare a spasso nel tempo, la memoria può darci una mano per capire la gioia o il tormento, come ci porta spesso lontano. Momenti passati a sentire un destino dovuto alle stelle, per amore è duro soffrire, storie tristi sempre più belle. Capire l'amore è una storia nel tempo fermato per noi, rimasto nella memoria, le ferite son cose d'eroi. Amori finiti in tragedia, quei libri letti da noi, strana farsa finita in commedia, perché noi non siamo gli eroi. Che basta un momento per sentire qualcosa di strano, per la gioia oppure il tormento, non ci serve andare lontano. Sentire a fondo e capire un destino mai dato da stelle, se amare vale il soffrire, sono storie sempre più belle. Il ricordo vale una storia, quella vissuta da noi è rimasta nella memoria, non ci basta per essere eroi. L'amore ci ferma il tempo, il cuore vola lontano, sei di gioia oppure tormento, storie di vita, niente di strano.